Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Beh, oggi molto molto attualità, perché parleremo delle prossime elezioni che ci trovano partecipi il 4 di marzo. Poi noi per due motivi, no? Abbiamo quelli a carattere nazionale che quelli a carattere regionale. Buongiorno Marco. Aspetta che non ti sento, c'è qualche problema? Perché adesso non ti sento? Non ti sto sentendo. Allora aspetta un attimino, che adesso ti do la linea giusta, vai. Buongiorno Stefano, eccoci qui, abbiamo risolto i nostri problemi, ma il bello della diretta. C'è il maltempo oggi. Oggi è la giornata grigia. Allora, dicendo, noi abbiamo due impegni, siamo impegnati in due decisioni molto importanti, il Presidente della Regione Lazio e le elezioni a carattere nazionale, no? Esatto Stefano, quest'anno saremo chiamati, soprattutto noi nel Lazio, a esprimerci sulla scelta del candidato presidente della Regione Lazio e soprattutto per le politiche nazionali, chi sarà alla guida del paese dopo il 4 di marzo, per cui due importanti traguardi che dovremo raggiungere e spero superare positivamente con la composizione di un governo stabile sia a livello nazionale, sarà più facile a livello regionale perché la legge elettorale è diversa e quindi potremo riniziare una nuova fase dopo la conclusione della 17ª legislatura in ambito nazionale e la consigliatura di Zingaretti invece in quella regionale. Vedremo se il presidente uscente sarà riconfermato o dovrà lasciare il passo agli altri competitor che via via stanno ancora trovando in campagna elettorale la loro collocazione, perché il centrodestra ancora non ha espresso formalmente, se non si parlava ieri di Rampelli, per quanto riguarda il candidato per la lista di centrodestra, il Movimento 5 Stelle con la Lombardia e Zingaretti per il centrosinistra. Quindi questa è la composizione a livello regionale. A livello nazionale, con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, invece la geografia variabile delle composizioni dei varie liste, vari gruppi politici che si stanno componendo in queste ultime ore, perché il 29 gennaio scadrà anche la raccolta delle firme, oggi si aprono la consegna delle liste al Ministero e quindi nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più. Per la puntata però di Agora in Onda oggi voleva soffermarsi proprio su l'appello che il Presidente della Repubblica aveva fatto già nel discorso di fine anno, rivolgendosi ai giovani che per la prima volta si affacciano al voto, e soprattutto quel bellissimo paragone che il Presidente Mattarella, sempre nel discorso di fine anno, aveva portato rispetto ai giovani del 99, la classe del 1899, che per la prima volta nel 1917, dopo la sconfitta di Caporetto, venne chiamata alle armi per risollevare le sorti della nazione dopo la sconfitta, e i giovani del 1999 che quest'anno, entro marzo, compiranno i 18 anni e che quindi saranno chiamati per la prima volta ad esprimersi democraticamente al voto. Quindi a distanza di 100 anni una fotografia di un paese che è cambiato radicalmente e che chiedeva ai giovani del 99, del 1899, di impegnarsi alla difesa della nostra nazione, che oggi invece nel 2017 chiede ai giovani invece di partecipare democraticamente. Cosa che però secondo me è cambiato parecchio, no? Perché insomma in quell'era lì è servita forse a creare qualcosa, a portare avanti da come la vedo io, da persona che ha votato più di una volta, perché lui ha fatto il riferimento ai giovani che vanno per la prima volta a votare o forse per la seconda, perché magari si hanno beccato anche, perché da parecchio che non si vota più, no? Allora abbiamo votato per le regionali, adesso si voterà anche a carattere nazionale, ci saranno giovani che avranno votato per le regionali e adesso voteranno anche tutti quei giovani che hanno compiuto i 18 anni, certo, a cavallo tra le due votazioni, quindi saranno chiamati ad esprimersi. No, però io volevo fare il paragone che quei giovani là del 1899 si sono trovati davanti, a mio giudizio, io poi dopo c'è qualcuno che ha detto lo schifo politico, ma nella politica c'è anche chi non fa schifo, c'è anche chi la sa fare la politica, no? Allora, assolutamente. Secondo me quel periodo là ci sono stati politici validi che hanno portato l'Italia ad essere forse una nazione che si poteva permettere il lusso di affrontare qualsiasi tipo di discorso. Poi dopo credo che già nella fine degli anni Ottanta in poi abbiamo cominciato ad avere qualche politico che non era più politico e ci ha portato a questa situazione attuale, che forse un po' si sta riprendendo, ma comunque sotto il punto di vista di promesse non mi piace questa cosa, perché quel periodo lì non c'erano promesse, lì c'erano cose concrete e secondo me Mattarella si è voluto rifare proprio a quel periodo, proprio per parlare con i giovani e chiedere ai giovani un loro parere, cioè di non stare a casa, perché qui le previsioni sono bruttissime, anche, ma non solo quello che dicono i giornali e soprattutto i sondaggisti, che dicono che ci sono più astenuti da parte dei giovani dal 2013 a oggi, siamo al 70%, ma è tangibile, proprio si tocca con mano quando tu parli con i giovani, e io per giovani intendo quelli che non hanno la mia età, nel senso che hanno ormai, tu sei un ex giovane che hanno 25-30 anni, cioè già questi ti cominciano a dire ma di che cosa vogliamo parlare. Evidentemente secondo me c'è un problema di comunicazione, perché evidentemente forse è più forte quel tra virgolette politico che fa promesse, ecco. Cioè, è più forte quello che arriva di messaggio invece di quell'altro che fa le cose e non arriva, cioè c'è qualcosa bisogna ricostruire, a mio avviso, un nuovo patto sociale, nel senso che bisogna, ecco, il monito del presidente è proprio quello, come dicevi tu, rispetto a un astensionismo che si prevede in crescita, quindi un dato negativo rispetto a quelle che possono essere le previsioni che le maggiori testate che fanno sondaggi hanno in qualche modo previsto in diminuzione rispetto al 2013. Però obiettivamente c'è bisogno di investire nuovamente, proprio uso questo termine nuovamente, in politica, perché è questo che dà la base della crescita sociale e culturale di un paese, e da questo punto di vista abbiamo bisogno che i giovani possano in qualche modo esprimere la loro posizione, soprattutto facendo quel paragone con la classe del 1899. Tu dicevi era un'altra generazione, esatto, quello era ancora il Regno d'Italia, adesso ci troviamo in un regime democratico, in uno Stato democratico dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha visto negli anni, come in tutti i paesi purtroppo, diciamo, diminuire le persone che vanno al voto in numero crescente, proprio perché esiste un po' di sfiducia rispetto a questo, quindi anche la classe politica deve fare uno sforzo per riuscire a coinvolgere sempre un numero crescente di persone. Sono cambiati i tempi, questo è innegabile, per cui dovrà essere fatto un nuovo patto, l'invito che il presidente ha fatto ai giovani è proprio di ricominciare a credere effettivamente nella politica e nella possibilità di cambiare le cose che non funzionano, però non nel modo in cui anche i partiti stanno facendo in questa inizio di campagna elettorale, facendo delle promesse che sembrano più degli slogan o più della propaganda, diciamo, di basso profilo, che non delle effettive proposte politiche serie, perché debbono essere concrete, misurabili e soprattutto realizzabili. Allora, se ci sono giovani che vogliono intervenire o anche non giovani che vogliono intervenire, possono farlo tranquillamente chiamandoci allo 06 953 5787. In linea questa mattina abbiamo Danila. Buongiorno Danila, mi senti? Pronto? Forse abbiamo problemi con la linea, vediamo un attimino se la possiamo recuperare. No, è caduta la linea, allora niente, è caduta la linea. Vai avanti tu un attimino con l'introduzione, sì, di quello che ci riportano i giornali, e cerco di recuperare un attimino la telefonata. Allora, mentre tu, proprio perché siamo in diretta, cerchi di ricontattare la nostra ascoltatrice che ci ha chiamato per esprimere la sua posizione rispetto a quello che è il voto dei giovani in attesa di questa nuova tornata elettorale, anche le maggiori testate giornalistiche hanno cominciato proprio a chiedere agli elettori, come in parte stiamo facendo noi qui dalle frequenze di Radio Onda Libera, di esprimersi su che cosa si aspettano dalle proposte elettorali che in questi giorni di campagna elettorale stiamo sentendo dalle varie parti politiche. Quindi abbiamo sentito una parola molto in voga in questi giorni, che è quella dell'abrogazione. ecco. Dovremmo avere la diretta adesso perché lei ci sentiva. Pronto? Mi senti adesso? Pronto. Oh, eccoci qua. Allora. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Danila. Allora, avrai sentito la nostra introduzione, avrai capito, come già ti accennavamo anche in privato, di cosa stiamo parlando quest'oggi, visto che tu comunque vai a scuola, giusto, no? Frequenti? Sì, sono una studentessa universitaria. Ecco, cosa studi? Studio chimica alla Sapienza. Allora, alla Sapienza mi prendi proprio come, cioè mi cadi come il cacio sui maccheroni, perché praticamente ho un servizio giornalistico che riguarda Padoan. Padoan che è stato praticamente proprio dalle tue parti, lì alla Sapienza, l'Aula Magna, dice, sì. Anche lui ha detto allarme giovani nel mercato del lavoro. Cioè il capo dello Stato che ha dato un allarme per quanto riguarda le urne, mentre Padoan si lamenta e dà un allarme sul mercato del lavoro. Il bilancio dell'andamento è caratterizzato da luci e ombre e troppi decidono di andarsene dall'Italia. Così lo ha detto, queste sono le parole del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan. Secondo te uno dei problemi che allontana i giovani può essere, e sicuramente è questo, il lavoro? Sì, moltissimo. Sia la percentuale maggiore per il fatto che comunque allontana i giovani dall'Italia. Ecco, perché... ti posso sì. chiedere, Danila, visto che tu sei una studentessa universitaria, quindi sì. una ragazza che sta impegnando il suo tempo per cercare di costruire un'Italia migliore attraverso una tua formazione personale, ma che poi è una dimensione collettiva, ecco, che cosa ti aspetti anche dalle elezioni prossime, soprattutto che cosa ti aspetti dalla politica e per te dal tuo futuro personale, che poi raggiunge anche una dimensione collettiva? Allora, partiamo dal presupposto che secondo me, se la maggior parte delle persone, comunque dei ragazzi, vanno fuori dall'Italia, comunque l'Italia sta fallendo come paese. Partiamo da questo presupposto, però prendiamolo sempre con le pinze. Cioè, prendiamole con le pinze queste parole. Nel momento in cui io, ragazza universitaria, comunque studio, e i miei genitori, che purtroppo comunque, diciamo, lo stipendio è quello, devono ammazzarsi, tra virgolette, per pagare delle rate, giustamente dopo aver preso una o due lauree, comunque aver fatto un percorso di studio abbastanza impegnativo, io mi aspetto che comunque uscendo fuori dall'università, diciamo, riesca a trovare lavoro per quello che ho studiato. E più delle volte non è così. Purtroppo ci sono ragazzi che comunque sono laureati, hanno fatto una triennale, hanno fatto una quinquennale, hanno due lauree, ma per lavorare, cioè, bisogna dirlo, mo non è cattiveria, non è anche diciamo disprezzare cose a lavori di altro genere, però ci sono ragazzi che con cinque lauree si trovano a fare magari cassieri, con una laurea da 5 anni, scusi, si trovano a fare cassieri, oppure come me che magari per mantenermi gli studi oppure riuscire a comprare un libro all'università devo andare a fare ripetizioni. Quindi tu dici il problema principale dal tuo punto di vista, dal punto di vista di tantissimi giovani, è proprio quello di il lavoro che non riesce che non si riesce a trovare in Italia, soprattutto rispetto a quello che si è studiato. Ecco, ti chiedo a questo esatto. punto il tuo impegno rispetto a quello che potrà essere il lavoro futuro, cioè nel senso tu vedi la possibilità in Italia anche di trovare lavoro attraverso il tuo impegno personale, attraverso qualcosa che potrai realizzare tu di nuovo, o preferisci un lavoro già tra virgolette istituzionale, no? Perché spesso l'Italia ha anche grandissimi giovani che riescono dopo lo studio a organizzare un lavoro. È chiaro, non è una cosa semplicissima, però è uno stimolo che tanti giovani, soprattutto che compiono un percorso universitario, dovrebbero anche compiere, no? Sì. No, io credo comunque, cioè io spero che, anzi io credo che dopo comunque tutto il percorso di studi che sto facendo, appena ricevuta una laurea, io credo e spero sempre, sottolineato 20 volte, di riuscire a trovare un lavoro in Italia, perché comunque non credo che siamo arrivati veramente allo strascico, cioè non abbiamo ancora toccato il fondo, comunque un briciolo di speranza c'è, soprattutto per noi. Le persone del governo, comunque i deputati, quelli che si stanno candidando, tutti quelli che rappresentano comunque la politica, dicono sempre che comunque i giovani sono il futuro, ed è vero, perché comunque senza di noi, giustamente, un padre che lavora arriva alla pensione e poi lì si ferma, con tutto rispetto, per carità, però dopo veniamo noi, quindi giustamente se noi non portiamo avanti l'economia, non portiamo avanti l'industria, non portiamo avanti il lavoro, chi lo porta avanti in Italia? Ecco, siamo rimasti solamente noi. Rispetto a questo che tu hai detto, che mi sembra giustissimo, che cosa nelle proposte che stiamo sentendo tutti i giorni nei maggiori mezzi di comunicazione, dalla radio ai giornali, alla televisione, queste proposte che i partiti stanno ponendo in campo, ti sembrano rispecchiare quello che tu hai appena detto, oppure c'è uno scollamento? Ecco, io quello che infatti gli volevo chiedere. Mi senti, Daniela? Dai. No, quello che volevo dire era appunto buttarla così, no? Intitolare questa. Perché sembra quasi una favola, no? Tutte le promesse sembrano favole. Allora, la prima volta, perché ci si rivolge ai giovani che vanno la prima volta, ma allora qualcuno dirà destra, sinistra, nessuno. È quel nessuno che spaventa, perché poi è normale che ci si fa la domanda con quali motivazioni. Le cose che influenzano i giovani che vanno a votare, quali sono queste motivazioni? Qual è il ritratto della generazione zero, secondo te, che si presenta lì davanti alle urne e decide quei pochi? Perché se le ricerche di statistiche dicono che il 70% non va, facciamo che il 30% vada a votare, appunto, con quale motivazione, secondo te? Con la speranza, allora, o con le certezze? Ma secondo me, io penso si divida sempre in percentuale, perché non credo che i giovani siano, cioè facciamo di tutta l'erba un fatto. Pronto? Comunque si divide sempre in una percentuale, chi più chi meno. Io quando vado a votare vado sempre con una speranza di trovare lavoro e con la certezza anche di riuscire a a raggiungere i miei obiettivi, però molto probabilmente se c'è questa se i giovani arrivati ad oggi qui non vanno a votare, quindi c'è questo scollamento, un basso flusso di ragazzi che vanno alle urne, forse è perché, come diceva anche il signore prima, che comunque loro più di leggere un programma stanno facendo propaganda, quindi giustamente quando un ragazzo appena compiuto 18 anni che entra entra in un mondo nuovo, perché comunque fino a 18 anni tu sei alla scuola, quindi ci pensi o non ci pensi a queste cose, però dopo compiuti 18 anni fa, ho 18 anni, ho finito la scuola, adesso che faccio? Punto di domanda. Il lavoro c'è per me? Cioè, posso riuscire a trovare lavoro? O penso direttamente di andare all'estero? Comunque i ragazzi queste domande se le fanno. Quindi un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni e decide subito di andare all'estero perché sa al 100% che qui il lavoro non lo trova, giustamente che fa? Si disinteressa di politica, quindi dice a me che me ne frega senti questi che dicono queste quattro cazzate in televisione. Ecco qua, infatti, allora era quello che volevamo. Abbiamo cercato di evitare, però no, poi alla fine, insomma, i discorsi sono quelli, no? Ha perfettamente ragione sotto alcuni punti di vista, perché se tu non mi fai un programma, se tu non ti proponi con un programma valido, è solo queste promesse che vanno avanti ormai da anni, perché insomma dai anni 90 che fanno promesse, alla fine giustamente un giovane dice beh ok, ma se promesse poi alla fine, ecco, è caduta la linea. Vabbè, noi ringraziamo Danila naturalmente, però dice come, ecco, faccio io a credere a certe cose? Esatto, no, la domanda soprattutto è che avrei voluto porre a Danila, purtroppo la ci sono problemi con la linea. La linea stamattina sì. non ci aiuta. Era proprio quella di vedere se queste in parte ho anche già detto, però se queste questo modo di porsi, soprattutto in quello che stiamo vedendo proprio negli ultimi in questi giorni, la campagna elettorale è iniziata da poco, ma sembra che già sia nel merito delle grandi proposte politiche che poi debbono trovare invece attuazione concreta. Ecco, se questo modo di fare affascina anche i giovani, no? Soprattutto sentendo le varie proposte. Quindi... Sì, però Marco, scusami, io torno sul discorso iniziale, no? Ok, il capo dello Stato ha fatto questo discorso per i giovani e che ben vengano i giovani, no? Però adesso io vorrei fare la domanda, ma anche noi che abbiamo una certa età, non è che abbiamo tutta questa voglia di andare a votare e soprattutto io li sento quelli che hanno la mia età, insomma, si lamentano anche loro, sono non hanno più una volta si diceva hai delle aspettative oppure credi in alcune, adesso non credo, cioè difficilmente riesci a credere a gente che, ma tutti, perché poi alla fine, cioè, parte uno con una promessa, l'altro te ne fa un'altra. Beh, ecco. Mi sembra un po' Antonio Albanese, non so se l'avrai visto chissà quante volte, insomma, comico. Dice noi daremo 1 milione, 2 milioni, cioè alla fine insomma sembra un'asta, è diventata praticamente la campagna elettorale un'asta. Perché? Allora, cioè per quale motivo? Allora la domanda mia era questa, se c'è un'asta, se si continua sia da una parte che dall'altra, io prima ho detto destra, sinistra, centro, ma non mi va neanche di espormi così, perché poi alla fine se dici giallo devi dire anche rosso, ormai con sta par condicio è un casino, bisogna stare attenti a dire se vai di qua o vai di là, insomma vabbè, comunque in generale la politica se fa queste promesse vuol dire che l'Italia ha bisogno di queste cose, vuol dire che loro sanno che mancano queste cose, vuol dire che l'italiano ha bisogno di quelle cose, perché se tu mi fai queste promesse vuol dire che hai capito dove sta il problema, giusto, no? Bisogna trovare il modo serio di mettere insieme, allora la proposta politica è una proposta che va fatta in maniera seria e non aiuta il fatto che la campagna elettorale diventi il momento nella quale si possano dipanare slogan, o meglio in questo caso proposte, come dicevi tu, al rialzo, no? Certo, ecco, non certo. È questo, il momento della serietà è il momento, lo diceva anche il presidente Gentiloni nell'intervista di ieri, non è il momento delle cicale, no? Cioè non è il momento di mettersi lì a spararla più grossa, anche perché la cicala poi canta prima o poi scoppia, esatto, insomma, è no? Proprio per questo no? La metafora era proprio su questo, proprio perché bisogna in qualche modo avere soprattutto nei momenti come questo, cioè nei momenti in cui c'è una fase di ripresa economica, abbiamo fatto un percorso difficile perché... Ecco, hai detto una cosa giusta, la ripresa economica, perché l'italiano non sente la ripresa economica? E guarda, io secondo me c'è un problema di fondo sulla politica, no? Cioè il politico si chiude dentro una stanza, dimentica di andare in giro e sentire le persone. Secondo me il problema principale è questo. Ma sicuramente della politica in Italia, perché se tu non ti rendi conto, allora se tu dici che c'è una piccola parte di ripresa, piccola perché anche la disoccupazione è l'11%, insomma non è che abbiamo fatto grandi passi, però insomma qualcosa si è rimesso in moto, un meccanismo si è mosso, ma se il cittadino non la sente, quelle cose sono due, secondo come la vedo io, perché io confrontandomi con persone di altre regioni, e stamattina sto facendo proprio un riferimento a due regioni in modo particolare, se io parlo con quelle persone stanno bene, se loro parlano con noi si rendono conto che noi passiamo guai a vivere, ad andare avanti, trovare lavoro e fare qualsiasi altra cosa che le altre regioni, e queste due regioni sono Toscana e Emilia Romagna, se io parlo con queste persone non hanno problemi, cioè a differenza nostra non hanno problemi, riescono a, quando gli dici guarda qui un ragazzo, io ho un ragazzo di 25 anni, non riesco a farlo entrare nel mondo del lavoro, anche perché insomma non è che posso andare a casa a spolverare i mobili e cose varie, ti rimangono a guardare in faccia e dico ma è possibile? È possibile, perché se io, e qui veniamo al nocciolo della questione, se io lo mando a lavorare in un posto lo pagano a nero. Ecco, un altro problema, come dicevi tu, esistono delle diversità anche regionali. Se ne rende conto il politico di questo? Ma io credo che se ne renda conto, perché è sotto gli occhi di tutti. Il problema è come trovare degli strumenti concreti che possano poi riuscire con politiche di la politica è una parola seria. Certo. Quindi certo. Lo abbiamo banalizzato dando colpa sempre a qualcun altro. Ecco, bisogna, come dicevo all'inizio, e come soprattutto auspicava anche il Presidente della Repubblica, ricostruire un patto sociale. Cioè, quando tu dicevi prima la politica, i messaggi, lo slogan, la propaganda, ecco, la politica non è questo. La politica è avere la visione di come deve essere sviluppato un determinato percorso istituzionale, politico, amministrativo, e non è soltanto e quindi come si prima si parlava di ideologie, oggi secondo me il termine più giusto è ideologia, infatti. Oggi si parla di visione, no? Ecco, la visione di come dovrà essere il mondo. Troppi visionari però ci sono. No, ma quello è alla base, no? Perché è quello che rappresenta poi il motivo perché si fa una scelta, quindi scegliere una cosa piuttosto che un'altra è frutto dell'ideologia, quindi anche della visione, della prospettiva che si ha dello sviluppo di un paese. E questo è il discrimine, ovviamente, tra le varie forze politiche, ognuno ha una sua visione di fondo. Il problema è che se è tutto rappresentato in maniera così semplice, quindi il cittadino elettore è considerato semplicemente come non gli si fa capire che cosa si vuole fare in concreto, ma semplicemente attraverso gli slogan, si sta dando, come diceva qualche commentatore, sembra quasi una politica per i piccoli, no, per i bambini. Ecco, questo è l'errore di fondo che compie la politica anche ad alti livelli, perché la politica è una cosa seria, rappresentarla in maniera semplice non è facile, ma le cose complesse non sempre possono essere ridimensionate a qualcosa di semplice, proprio perché le sfide che si debbono affrontare, come diceva Danilo, come dicevi tu, il lavoro, l'Europa, il debito, non sono sfide che possono essere affrontate semplicemente con le ricette mordi e fuggi che si danno in campagna elettorale, ma che sono il frutto ovviamente di una sintesi politica, di un ragionamento che però poi si deve calare nella realtà. Le cose sono due. Cioè, quando si parla anche di sostenibilità economica, no? Ne parlava stamattina un commentatore politico, poi bisogna vedere, perché è chiaro che tu come lo Stato, come un'azienda, è composto di entrate e di uscite. Se non si vuole ricorrere solo al taglio, come abbiamo fatto forse anche male in questi anni, bisogna vedere come è possibile ampliare le entrate, che però non debbono necessariamente essere soltanto le tasse, però bisogna garantire, e l'esempio che hai fatto tu delle regioni che hanno più qualità della vita, quindi Toscana per esempio, Emilia Romagna, ce ne sono anche altre, sì, però questi hanno sviluppato nel loro interno una qualità dei servizi, quindi da quel punto di vista i servizi non sono qualcosa che è solo visto in perdita, che bisogna tagliare perché costa la spesa pubblica spesso è improduttiva, cioè non produce ulteriori profitti, ulteriori vantaggi economici, però produce benessere. Quindi chi ha il compito di gestire, dal piccolo comune alla regione allo Stato italiano, ha bisogno di mettere insieme quelle che sono le possibilità per il cittadino di stare meglio, quindi in primis i servizi e poi dopo anche le altre attività. Quindi far funzionare i servizi è una cosa fondamentale che ogni politico deve mettere al centro della propria agenda politica e deve poi coinvolgere in questo gli elettori e far capire quanto è spesso anche difficile, soprattutto perché in questa fase storica noi veniamo da una crisi economica molto forte, quindi il clima di sfiducia che ha caratterizzato gli anni precedenti, perché magari anche prima c'era un distacco dalla politica, però le condizioni economiche erano migliori, quindi nessuno aveva posto l'accento sul fatto che la crisi fosse politica. Oggi tutto si riconduce spesso anche all'incapacità tra virgolette dei politici. Il problema è che in momenti particolari come quelli che abbiamo vissuto, una difficoltà economica accentua, esaspera ancora di più, e quindi in questo caso si dà anche la colpa alla politica. Il problema è ripartire, diciamo, da un senso comune, da delle regole condivise, e su questo poi ognuno avrà la propria proposta politica, però da questo punto di vista non si può non prendere atto che lo scenario non soltanto italiano, ma lo scenario mondiale è cambiato drasticamente. Certo, ma è normale che siamo ancora lontani dai risultati accettabili per quello che si sta facendo, però secondo me la colpa principalmente, io l'ho sempre detto e lo ripeto ancora, la colpa non è tanto dei politici quanto la nostra, perché sì, se noi continuiamo a credere a solamente a quello che promettono e non ai programmi concreti, è normale che poi alla fine... Certo, io la proposta la faccio, cioè chi vende, tra virgolette, scusate il termine brutto, vende, ma chi propone qualcosa a qualcuno piacerà sicuramente, certo, quindi se lo sforzo... No, a me personalmente quello che dà fastidio è che si ricordano dei giovani sotto le elezioni, dei cinquantenni che hanno perso il lavoro sotto le elezioni, che ci sono strade purtroppo, e questa è un'altra cosa che io non riesco a capire. Perché alcuni comuni hanno messo a posto le strade e le province continuano ad avere problemi nel mettere a posto strade che hanno voragini, ormai lo stiamo vedendo ogni giorno come piove. Perché una delle grandi incompiute è stata anche quella riforma istituzionale, al di là della modifica della Costituzione. Ma ci sono ancora le province? Non ci sono, io questo non l'ho capito. Esatto, le province esistono. Ecco, quando facevamo questo ragionamento rispetto a che cosa si vuol fare, ecco, una visione concreta di quello che... che deve essere un programma, una proposta politica seria, deve specificare che cosa fare. Abbiamo fatto delle piccole modifiche che hanno in parte tenuto, alcune diciamo sul riordino dell'assetto istituzionale, che poi non ha portato a un miglioramento effettivo, perché le province, come sapete, sono rimaste in maniera diversa come organi di secondo livello. In più sono nate le città metropolitane. Se vedete per esempio la città metropolitana di Roma, nella quale noi siamo a Palestrina, facciamo parte della città metropolitana di Roma, ad oggi prima c'era una provincia, se non altro, che rispondeva a certi criteri. Oggi c'è una città metropolitana che purtroppo per questa modalità anche di formazione non riesce a partire, vuoi perché mancano anche i fondi, ma non c'è proprio più un'attenzione, una possibilità per poterla rilanciare. Quindi sono riforme a metà che non hanno portato un beneficio, non hanno portato soltanto dire che si risparmia per poi non fare le cose. Sicuramente non è l'approccio corretto. Rimandiamo la prossima, al prossimo venerdì, tanto ormai piano piano ci avviciniamo. Anzi, ecco, lanciamo l'appello a chi volesse intervenire, certo, fare tranquillamente. Farci, come ha fatto Danila questa mattina, a invitare gli ascoltatori a darci la loro opinione e a instaurare un dialogo, magari che ci porterà da qui alle prossime elezioni, ascoltando i diversi punti di vista. Oggi abbiamo ascoltato il punto di vista di una studentessa universitaria, la prossima settimana magari avremo il piacere di ascoltare altre persone che ci porranno il loro problema e soprattutto la loro visione. Io ti ringrazio, Stefano. Per oggi è tutto, lasciamo lo spazio a Libertime, abbiamo rubato anche un po' di minuti, poi li restituiremo sicuramente con gli interessi. E niente, allora noi ci sentiamo venerdì prossimo sempre con Agora in Onda qui su Radio Onda Libera, e in settimana poi vi faremo sapere se approfondiremo ancora altri argomenti. Intanto questo rimarrà la base del nostro percorso, diciamo così, che ci accompagnerà fino verso, no, primavera no, perché la primavera viene prima, bene, politica, quella politica parlo. Ci sentiamo lunedì mattina con Caffè Latte Notizie e ti auguro buon weekend. Ciao, buon Marco. Weekend a tutti, a te e a tutti i radioascoltatori, grazie. Agora in Onda. Agora in Onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri.